Si chiama Tebera, il primo progetto di cooperazione internazionale promosso e finanziato dall'Unione Europea che vede il nostro paese capofila di un programma medico-scientifico e sanitario nel bacino del Mediterraneo a partire dall'Egitto. Il progetto, presentato in apertura del congresso della Società Italiana per la Sicurezza e la Qualità nei Trapianti, fa del nostro paese un importante referente europeo in ambito trapiantologico. Ne parliamo oggi con il professor Franco Filipponi, direttore dell'unità operativa di chirurgia generale e trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera universitaria Pisana. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, allora innanzitutto siamo contenti di questo progetto, perché Tebera è il primo progetto finanziato dalla comunità europea che vede proprio l'Italia, direi, esportare il proprio know-how medico-scientifico e sanitario nel bacino del Mediterraneo, e lo fa a partire dall'Egitto. Il nostro paese è sicuramente un importante referente europeo in ambito trapiantologico. Ci spiega perché? Dunque, il nostro paese, che è nato negli anni 80 e primi 90 con delle grandi difficoltà per il trattamento delle malattie epatiche finalizzate spesso al trapianto di fegato, ha poi trovato una via di sviluppo estremamente importante grazie anche alla legge 91-99 che ha istituito il Centro Nazionale dei Trapianti. È da lì che l'Italia è cresciuta sempre più, tanto da essere oramai una realtà indiscussa dopo la Spagna e condividendo la seconda postazione generalmente con la Francia, ma di fatto ormai una realtà acclarata a livello internazionale, non solo europeo. Questo permette al nostro paese ormai da tempo di poter impegnarsi anche in dei progetti della comunità europea, e a noi era sembrato importante, questo già accadeva un anno e mezzo fa, poter iniziare un processo con i paesi del bacino del Mediterraneo, quindi del Nord Africa, che sotto un profilo scientifico hanno molte vicinanze con noi, purtroppo con una prevalenza di virus epatite da HCV estremamente importante, che è presente sia ovviamente in alcune regioni italiane che in tutto il bacino dell'Egitto, e che quindi portava un interesse multidisciplinare all'attenzione del sistema Europa, che in questi anni doveva e ha coinvolto in molte occasioni ovviamente anche il bacino del Nord Africa, coinvolgimento indispensabile per un equilibrio anche del bacino del Mediterraneo. Tutto quanto stiamo facendo oramai dopo 8 mesi dall'inizio del progetto, che vede a breve anche una verifica da parte dei membri della comunità europea, chiaramente sta portando l'Italia ad avere un ruolo importante grazie essere capofila come Università di Pisa e coinvolgendo tutto il sistema nazionale, oltre che quello europeo, nella formazione, nel trasferimento di tecnologie all'Egitto. Tra l'altro, professore Tebera, ricordiamo, è proprio un progetto che affronta la tematica delle malattie epatiche dall'epidemiologia fino al trapianto, e la cosa importante da sottolineare è che non solo questo progetto mira a mettere l'Egitto nelle condizioni di provvedere a se stesso aumentandone le competenze fino al raggiungimento del limite di copertura del proprio fabbisogno nazionale, ma risponde proprio ad una precisa strategia di cooperazione tra l'Unione Europea e l'Egitto. Infatti, proprio una unione estremamente importante, perché di fatto l'Egitto, che già aveva fatto domanda alcuni anni or sono per l'accesso a livello europeo, domanda peraltro accettata con piacere dai livelli europei, si era soltanto da trovare una modalità di intervento per questa cosa, che è stata trovata appunto nel 2010 e che di fatto oggi vede la possibilità per il mondo egiziano, ma poi contiamo, se tutto può procedere correttamente, di coinvolgere anche il Marocco e la Siria, che si era anch'essa candidata, e che di fatto potrebbero essere dei risvolti estremamente importanti in termini formativi e anche ovviamente per poter mantenere un livello di formazione anche nel loro paese. Professore, ci sono due ordini di problemi sui quali la comunità scientifica, ma anche le istituzioni, si interrogano da tempo. Il primo è la scarsità degli organi e il secondo è relativo ai problemi organizzativi. Come si stanno organizzando l'Italia e i paesi europei